Gastronauta di Davide Paolini. Gastronauti vicini e lontani, buona giornata. Ebbene, oggi parleremo di api all'insegna di Salviamo le api, con un sottotitolo: senza api non si mangia. Ebbene, è diciamo una campagna che ha lanciato il Greenpeace e proprio in questi giorni, e ora ne parleremo, ma non parleremo solamente di questo, andiamo a vedere i vari aspetti di contributo che le api danno alla vita di ogni giorno. Pensiamo tutti che sia solamente un apporto di miele, in realtà non lo è al cibo in generale che mangiamo in larga parte, lo è anche e lo sta diventando come diciamo sentinelle dei territori, e vedremo un esperimento appunto che sta avvenendo in questo momento nella Terra dei Fuochi. E allora cominciamo da Federica Ferrario, che è la responsabile della campagna Agricoltura e Progetti Speciali di Greenpeace Italia. Ma prima di dargli la parola, io ricordo il numero verde 800 24 00 24, 349 238 6666, per gli sms, perché voglio anche il vostro contributo, cari radioascoltatori, cari gastronauti. Intervenite su questo argomento che vedrete è molto ma molto importante. Buongiorno Ferrario. Sì, buongiorno a tutti. Senta, voi avete lanciato questa campagna con, secondo me, un titolo che è molto significativo, forse per molti anche inaspettato. Senza api non si mangia. Ci vuol dire il contributo che le api danno appunto al nostro mangiare quotidiano? Sì, certo, come diceva anche tu prima, pensiamo solitamente alle api, le associamo al miele, ma in realtà questi piccoli insetti hanno un potere molto molto più grande, più forte, e in realtà siamo noi a dipendere in larga parte dal loro lavoro, perché grazie al servizio di impollinazione che svolgono quotidianamente noi abbiamo un terzo del cibo che tutti i giorni vediamo sulle nostre tavole e che dipende direttamente appunto dalla loro impollinazione, ma in realtà oltre il 70% delle colture, quindi degli alimenti che produciamo a livello mondiale, avrebbe una grossa diminuzione sia in termini qualitativi che quantitativi senza questo servizio di impollinazione, che è fatto sia dalle api, chiamiamole domestiche, ovvero quelle che alleviamo per produrre miele, ma dalle tantissime specie poi selvatiche che così, senza, lontano dagli occhi di tutti, in realtà quotidianamente ci permettono di avere cibo e il 90% della flora spontanea che ci circonda. Ecco, poi vedremo il Salviamo le api anche con altri esperti, quali ci diranno quali sono i pericoli che corrono le api, la moria di api, ma io voglio dare un dato e credo che sia praticamente quello che lei ha detto, ma le api sostengono la vita dell'84% delle piante e del 75% di quelle di interesse alimentare, quindi davvero un contributo formidabile. Ecco, ma voi come Greenpeace avete fatto, diciamo, avete dato una dimostrazione a Roma con un grande chef romano. Buongiorno ad Antonello Colonna. Ciao, buongiorno. Ciao Antonello, tu hai preparato dei piatti a base appunto, facendo mostrare qual è il contributo appunto delle api. Ce ne vuoi dare così qualche esempio? Ma guarda, intanto stavo ascoltando e quindi hai utilizzato parole magiche per quello che oggi è il lavoro, no oggi, da sempre, dalla storia al lavoro delle api. Io e me faccio questo mestiere da 30 anni, probabilmente non è mai troppo tardi, ma alla mia tarda età mi sono reso conto il valore delle api. Non a caso in questa mia nuova farm chef di 50 ettari ho capito che tutelare le api, decidere di tutelare un ecosistema, una biodiversità e tutto quello che può riportare ad una sana stagionalità dei prodotti, bisogna tutelare le api. E quindi l'altro giorno insieme a Greenpeace mi sono divertito ad utilizzare alcuni ingredienti, tra questi gli asparagi, i carciofi, il broccolo romano e il broccolo siciliano, proprio a dimostrazione di come queste nostre sentinelle, come le definite tu, riescono ancora una volta a darci la possibilità, perché dopo la creatività che ha attraversato la storia un po' della nostra cucina negli ultimi 20-30 anni, oggi bisogna passare alla tutela, perché senza la tutela, senza la ricerca è inutile. Quindi andremo poi ad una comunicazione, ad un'informazione che non ci appartiene più, siamo alle porte di Expo, nutrire il pianeta, e nutrire il pianeta, io mi sto rendendo conto sì, che certo significa e quali sono gli elementi, e io per assurdo andrei a recuperare un po' quelle che sono le procedure delle api e presentarle al nostro governo, che potrebbero rifare la Costituzione, cioè la Costituzione la potrebbero riscrivere le api, e questa mia sensibilità che ormai è rivolta da qualche anno anche attraverso la ricerca che faccio in questo mio parco naturale che è diventato monumento naturale, capisco. Però l'invito, come parlavo anche con Greenpeace, anche con Federica, qui l'invito, al di là delle industrie, al di là di tanti aspetti pesticidi, io qui mi trovo invece a sensibilizzare il contadino, cioè quel contadino che per me è stato sempre la sentinella e che oggi, ahimè, purtroppo non lo è più, perché è quella sentinella che ha perso la cultura di capire e di sapere che non può mettere disturbanti, che non può pensare solo a fare interessi economici mettendo pesticidi su pesche, quindi è un argomento molto molto sì, guarda, importante. Tu hai toccato diversi temi e soprattutto questo dell'Expo, e qui bisognerebbe veramente fare un appello, perché questo potrebbe veramente essere uno dei grandi temi da trattare, non solo aspetti commerciali di esposizioni di prodotti. Ecco, questo potrebbe essere veramente, senza api non si mangia e salviamo le api, no, è un tema determinante. Si muove. Certo, ma io voglio tornare a Federica Ferrario, grazie ad Antonello. Ferrario, voi come proseguirete su questa campagna? Ma continueremo a fare informazione per far conoscere il ruolo delle api e il declino che negli ultimi 10 anni le sta un po' colpendo, con numeri di abbastanza pesanti sia a livello europeo che negli Stati Uniti, ma anche nelle zone asiatiche, quindi con perdite di popolazioni pesanti e quindi con i rischi e tutte le conseguenze dal punto di vista sia ambientali che di produzione alimentare. In contemporanea stiamo facendo pressione sia all'autorità nazionale che a quelle europee per fare in modo di andare a eliminare, a vietare gradualmente, ma poi anche completamente, quelli che sono i pesticidi che hanno un danno diretto nei confronti di questi impollinatori, perché ovviamente il declino di questi insetti è dovuto a una serie di cause differenti, ma ormai è chiaro e sodato che un tipo di agricoltura che noi definiamo industriale, quindi dipendente da utilizzi sempre maggiori di sostanze chimiche di sintesi, da perdita di habitat legati anche all'utilizzo di monoculture e quindi conseguenza anche la dipendenza di poche multinazionali agrochimiche, è un punto fondamentale da affrontare. Questo è un aspetto che affronteremo anche nel corso della trasmissione, parleremo anche appunto di cosa succede a Bruxelles, visto che oggi sono le elezioni, non parleremo di politica ma parleremo di questi fatti che sono veramente importanti. Grazie a Federica Ferrario e alla sensibilizzazione di Greenpeace per questo argomento. Vi sentiamo una radioascoltatrice, Valerie D'Alecco. Buongiorno Valerie. Sì, salve signor Paolini, sono molto lieta di poter intervenire. Io volevo sottolineare una cosa, almeno fare una precisazione. Il problema delle api è un problema al quale sono molto sensibile. Nell'educazione ad esempio di nostro figlio, ricordo avere sempre spiegato lui di non schiacciare ad esempio anche il bruco, perché il bruco diventa una farfalla che anche lei consente di trasportare i pollini. Perciò è ovvio che se guardi solo fino a dove ti porta il naso, una cosa che mi rattrista molto, lo dicevo con la collaboratrice al telefono, questa settimana ho sentito giustamente su Radio 24, che ascolto continuativamente, un intervento di un apicoltore molto inquieto che voleva, giustamente come fanno gli operatori di Greenpeace con gran responsabilità, sensibilizzare sulla protezione, in quanto dipende il futuro delle generazioni dopo di noi e anche la nostra, per la produzione di cibo, per il loro contributo. E questo apicoltore è stato proprio preso molto in giro dal giornalista, che ha detto: io delle api non me ne frego un CA2ZO. Allora, onde di non nominare il giornalista, perché chi ha orecchie per intendere, io nel paese che ha dato nascita a Michelangelo, che possiede quasi la totalità dei beni culturali con una diversità che io non conosco, perché conosco solo le chiese, un po' di zone in Italia, io dico che sarebbe fondamentale, ma fondamentale nell'anno dell'Expo, per alzare il livello culturale, che la nazione Italia si facesse forse paladina di divulgare veramente delle conoscenze, di alzare il livello culturale, e la ringrazio infinitamente per portare alto questa bandiera, perché permettersi in una radio come Radio 24 dire le api non me ne frega un CA2ZO è un una cosa che veramente... Bene, mi spiace, non so in quale contesto possa essere successo, magari era probabilmente fuori tema, non lo so, comunque sicuramente invece delle api ce ne interessiamo, perché abbiamo lanciato questa, diciamo, prendendo lo slogan di Greenpeace, salviamo le api e senza le api non si mangia, quindi come vede un minimo di sensibilità c'è, e quindi continuiamo questo discorso, continuiamo, se abbiamo con noi, ecco, per continuare questo discorso abbiamo una apicoltrice con un'esperienza importante, abbiamo Francesca Zacchetti. Francesca Zacchetti, perché parlo di importanza dell'esperienza che magari ci racconterà? Perché pochi giorni fa sono andato in un'azienda biodinamica e, diciamo, il patron di questa azienda mi ha raccontato, incidentalmente parlando di api, che diciamo Francesca Zacchetti appunto ha portato in questa azienda completamente biodinamica, quindi senza pesticidi, le proprie arnie, e cos'è successo? Aveva una grande moria dove lei coltivava, mentre diciamo il miracolo è avvenuto in questa azienda dell'Oltrepò, e vorrei che lei ci raccontasse questa esperienza. Buongiorno Francesca Zacchetti. Buongiorno. Sì, esatto, la mia esperienza, diciamo che le Cascine Orsine, questa grossa azienda a conduzione biodinamica, sono stata la mia isola di salvezza per parte delle mie api, perché ovviamente non ho potuto portarle tutte lì. Negli anni 2004, 2005, 2006 le mie api ubicate in zone agricole a conduzione tradizionale subivano gravissimi avvelenamenti insostenibili. Non ho capito nell'immediato cosa stesse accadendo, nel senso che è mia consuetudine farmi prima un esame di coscienza, quindi mi ponevo domande sul perché sparivano api, trovavo cadaveri davanti agli alveari, cadaveri di api, e in primis mi sono chiesta: forse sto sbagliando qualcosa io, forse c'è qualche nuova patologia delle api che non conosco, di cui non è visibile la sintomatologia. E però proprio grazie al fatto che avevo già alcuni alveari ubicati presso le Cascine Orsine sono passata a pormi altre domande, nel senso che apiari a pochi chilometri di distanza soffrivano questi avvelenamenti, queste sparizioni di api, e quelli presso le Cascine Orsine stavano benissimo. E fu allora che mi resi conto che queste sparizioni ed avvelenamenti erano sempre concomitanti con alcuni eventi agricoli. Nel mio caso si trattava di fioritura di mais e di semina di mais. I prodotti utilizzati per conciare il seme del mais, noti come neonicotinoidi, dei prodotti insetticidi, si disperdevano nel territorio e provocavano gravissime morie. Parlo con il tempo passato perché dal 2008 alcuni di questi prodotti sono stati sospesi. La vita delle mie api e la mia è decisamente migliorata, ma i problemi non sono finiti, nel senso che comunque alcuni sono stati sospesi, altri sono stati autorizzati, e si fa comunque ancora un uso massiccio di prodotti insetticidi nella coltivazione del mais. Io mi riferisco al mais perché vivo ed opero in una zona in cui le culture prevalenti sono mais e riso, però le stesse molecole comunque continuano ad essere usate nelle coltivazioni di orticoli, frutticoli, quindi bene. Il problema non è finito. La ringrazio del suo apporto. Ricordo il numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666. Bene, arrivano decine e decine di sms, dagli all'untore, quindi sul discorso che ha fatto Valerì. Ringrazio Valerì D'Alecco, grazie Valerì del suo intervento, e vabbè, abbiamo visto che ha molto seguito. Sentiamo Angelo da Milano, radioascoltatore. Buongiorno Angelo. Buongiorno signor Paolini. Mi dica. Buongiorno. Senta, io volevo segnalare quest'altro perché mi sono chiesto: quando è il periodo di tagliare l'erba vicino anche alle strade, e tanti comuni, ormai province, ma io l'ho visto sia da nord a sud, mettono questi disturbanti che, quindi non lo so, seccano l'erba, seccano i fiori e tutto, quindi mi sono chiesto come mai non si taglia più l'erba nel periodo giusto, come mai nessuno, le istituzioni, le guardie forestali che ci sono in giro, le comunità montane non fanno informazione su questo problema che ci riguarda tutti. Bene, la ringrazio, e ora abbiamo con noi anche Cinzia Scaffidi, direttore del Centro Studi di Slow Food. Buongiorno Cinzia. Buongiorno a tutti. Buongiorno, voglio un po' parlare con te di questo rapporto su Salviamo le Api e lo Slow Food. Come vi state muovendo? Ma ci stiamo muovendo insieme agli apicoltori e ovviamente insieme a Greenpeace, insieme ai tanti, come dire, le tante associazioni di apicoltori che ci sono e che stanno lavorando soprattutto a quelle di sensibilizzazione del pubblico, ma poi anche su elementi di carattere tecnico, politico, interventi, insomma la produttrice, sì, che parlava del fatto che dal 2008 fortunatamente questi trattamenti con i neonicotinoidi sono stati sospesi. Questo è stato anche il frutto di un'attività di pressione che abbiamo fatto tutti assieme e che purtroppo va rinnovata continuamente, perché è chiaro che la pressione delle multinazionali dall'altro lato è comunque importante. L'elemento di assurdità di tutto questo sta proprio nel fatto che si fa fatica a rendersi conto di quanto, non solo di quanto importanti sono le api per tutto il cibo che consumiamo, per tutta la biodiversità che ci serve, che non è un elemento di accessorio, no? di poesia, come se fossero cose da ricchi, no? Ci occupiamo della biodiversità perché abbiamo la pancia piena, ci occupiamo della biodiversità perché se no ci ritroveremo con la pancia vuota, perché il problema di fare insterilire un sistema sta anche nel fatto che più è omogeneo, più è uniforme, più diventa fragile, attaccabile e vulnerabile da tantissime minacce. Il punto chiave è che non capiamo quanto noi siamo simili alle api, quanto il fatto che queste sostanze che attaccano il loro sistema neurologico non è che poi invece a noi fanno bene. E tutta una serie di ricerche abbastanza inquietanti dimostrano che ci sono una serie di patologie degli adulti, delle donne in gravidanza, dei feti, che hanno una rilevanza molto più alta nelle zone di campagna che non nelle zone urbane. Certo. E questa cosa qua è devastante, perché se tutti noi abbiamo ancora in mente l'idea del vado a vivere in campagna come se fosse un'oasi rispetto all'inquinamento della città, ecco, oggi io mi trovo nella situazione in cui se sono un residente veneto che abita vicino a un bosco e questo bosco glielo tirano giù, anche se è un bosco centenario, perché l'amministrazione non fa niente, io a quel punto lì devo sperare che tirino su un condominio anziché un vigneto di prosecco non biodinamico e non, certo, biologico, perché il vigneto di prosecco ad ogni stagione lo tratteranno e io sarò sempre lì vicino, la mia casa rimarrà lì e io sarò preda di quei trattamenti. Questa è veramente la follia, la certo, follia del guadagniamo subito e non importa a quali costi collettivi, i profitti vanno agli individui e invece le negatività si socializzano con grande, certo, con grande generosità. E poi c'è la questione economica di questi apicoltori. Se noi pensiamo a cosa vuol dire trovare i cadaveri delle api davanti agli alveari la mattina quando si va a vedere come stanno, proviamo a immaginare un allevatore di vini che entra nella sua stalla e trova tutte le mucche stecchite per terra. Allora i telegiornali farebbero l'inferno se questa cosa si verificasse in maniera massiva, come è successo per le api. Le api sono piccole e quindi niente, ne muoiono migliaia alla volta e sono capi di allevamento di qualcuno che su quella cosa lì sta costruendo economia, sta costruendo il così tanto amato PIL. Eppure pazienza, l'importante è che le multinazionali che vendono chimica siano contente. Bene, io voglio dare un dato: in Italia si stimano 1.100.000 alveari gestiti da 75.000 apicoltori per un valore economico di circa 1.500 milioni di euro l'anno. Grazie Cinzia, linea a Claudia dalla provincia di Asti, una radioascoltatrice. Buongiorno Claudia. Buongiorno signor Paolini, sono contenta che parliate di questo problema. Allora, io sono, mi sente? Sì, prego. Ok, sono una piccola coltivatrice diretta che ha sia api che vigne. Sono in una zona bellissima delle Langhe dove non c'è mais, non c'è riso, i problemi della signora dell'Oltrepò, diciamo così, che venivano trattati con i neonicotinoidi. Allora, i neonicotinoidi, adesso non ho sentito proprio tutta la trasmissione, non ammazzano le api, confondono il loro sistema neurologico, per cui non riescono più a ritrovare la via di casa. Uno si trova gli alveari vuoti, senza nessun motivo apparente, perché le api sono uscite a lavorare e non trovano più la strada per tornare. Però la cosa che volevo segnalare è che è vero che adesso, anche grazie a Greenpeace, di cui peraltro sono socia, è stato vietato l'uso, per esempio, per conciare le sementi di mais, di questi maledetti neonicotinoidi. Ma vengono usati in tante altre applicazioni. Bene. E la Regione Piemonte, per il trattamento obbligatorio della flavescenza dorata nelle vigne, come primo prodotto consiglia un neonicotinoide velenosissimo, e la maggioranza degli viticoltori, non scorre tutto l'elenco e va a vedere che cosa può prendere in alternativa, prende quello lì. Quello li usa, e quindi ci sono le morie di api anche Bene. In zone dove non c'è mai. Grazie Claudia di questa denuncia, speriamo che ci sia qualcuno dalla Regione Piemonte che voglia intervenire. Ebbene, numero verde 800 24 0024 per i nostri radioascoltatori che volessero intervenire, ma devo fare due precisazioni molto importanti. Una, che continuano ad arrivare degli sms rispetto all'intervento della signora che aveva così accusato un giornalista della nostra radio, e appunto io voglio dire che sensibilità c'è. Se io oggi sto facendo questa trasmissione vuol dire che siamo abbastanza aperti, quindi ognuno la pensa in una determinata maniera, e quindi noi continuiamo a parlare di api, mi sembra, in maniera molto ma molto aperta, ascoltando tutti. Non so il contesto appunto da cui è venuta quella frase, magari era in un momento che si parlava di altro argomento. Comunque, chiuso, basta con gli sms. Un altro punto: c'è un radioascoltatore che manda sms, ne ha già mandati 5, 6, 7, che contesta tutto, diciamo, quello che scientificamente è stato detto, e ce n'è un altro che dice: attenzione Paolini, stiamo criminalizzando un sistema di agricoltura con argomenti non dimostrati. Anche il discorso dei neonicotinoidi non è assolutamente confermato, e che sta producendo la vera ricchezza della nostra produzione alimentare. Per favore, un po' di equilibrio. Certo, caro Loris, ma a questo punto intervenga. Io lascio il telefono aperto, la linea aperta, glielo ripeto, 800 24 0024, è ben accolto, perché qui c'è libertà, il telefono è sempre aperto. Ma voglio andare, c'è un radioascoltatore che è da tempo in attesa, Andrea dalla provincia di Pisa. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Mi dica. Allora, io diciamo sono a metà, perché sono 8 anni che dirigo un'azienda agricola biologica di circa 300 ettari e provengo da un'esperienza di 15 anni di agricoltura tradizionale. Il problema è questo: che l'agricoltura biologica produce mediamente il 25-30% meno rispetto alla convenzionale, gli aiuti sono minimi se non irrisori, e purtroppo di poesia non si campa. Chi Bene. Vuole campare facendo il poeta deve avere un mecenate, quindi l'agricoltore che vuol tirar fuori la pagnotta e deve campare è costretto a non tagliare l'erba, come diceva l'ascoltatore di prima, perché il gasolio agricolo costa 90 centesimi, perché a fare tutti gli adempimenti sulla sicurezza, corsi per un operaio, tutto viene ad avere dei costi enormi, la burocrazia ci assassina. Quindi signori, Bene. L'agricoltura è trascurata da tutti. Grazie Andrea, che l'agricoltura è trascurata da tutti è ormai un dato di fatto in questo paese, ma da ormai 50 anni, quindi credo è un problema che io ripongo sempre. Basta vedere appunto gli interventi che ci sono, come ce ne occupiamo sui giornali. Ma torniamo alle api, torniamo a Francesco Panella, Unione Nazionale Associazione Apicoltori Italiani. Panella, sentite un po', lei cosa ne pensa? Ciao Davide, ciao a tutti. Io penso che questa agricoltura è un'agricoltura che in ogni caso assorbe quasi la metà del bilancio europeo, e che questi fondi sono spesi male, perché è un'agricoltura basata sullo spandimento di biocidi. Li chiamano così, in modo mieloso, li chiamano agrofarmaci. In realtà sono pesticidi, acaricidi, insetticidi. Questo è il dato di fatto che ci dicono le nostre api. Ci dicono che questo tipo di chimica è incompatibile con le forme vitali perché è fatto per sterminarle. Allora, io credo che il problema di fondo sia che le api ci segnalano è proprio questo. Non riguarda solo le api, riguarda tutto ciò che è produzione agricola. L'agricoltura non è come fare mattoni, metti un po' di terra, un po' d'acqua, un forno e costruisci un mattone, un'automobile. No, l'agricoltura ha a che fare con i meccanismi e le forme viventi. Se non vogliamo finire come la Cina, dove gli uomini devono trasformarsi in api per andare fiore per fiore, non possiamo sterminare, come stiamo facendo, api, coccinelle, pipistrelli, passeri. Questo è il dato. È un dato per cui bisogna investire per un'agricoltura che non sia condizionata, come è condizionata oggi, dai venditori di chimica che vendono chimica preventiva, che però stermina la vita. L'agricoltura diventa peggio dell'Ilva, questo è quello che ci dicono le api. Si esternalizzano i costi, che diventano costi ambientali. Panella, rimanga con noi perché ora ho una testimonianza importante. Abbiamo detto che le api non contribuiscono solamente al cibo, ma anche altre cose. C'è un'esperienza fatta dalla CONAPROA, Consorzio Nazionale Produttori Apistici. Abbiamo con noi Riccardo Terriaca. Buongiorno Terriaca, che buongiorno. Dimostra che possono essere delle sentinelle del territorio. Ci può parlare di questa esperienza che state facendo sulla Terra dei Fuochi, Terriaca? Sì, certo. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Il nostro è un piano di monitoraggio, che nasce sulla base di studi che sono stati effettuati fin dal 1935 nell'Europa dell'Est e poi sono stati sviluppati soprattutto ed anche in Italia, grazie soprattutto al professor Celli e alla sua equipe dell'Università di Bologna, che hanno dimostrato che l'ape forse è la migliore sentinella dell'ambiente per tutta una serie di motivi legati proprio al suo modo di vivere, di lavorare, di operare in sintonia con l'ambiente. Noi che vivi siamo un consorzio che ha il suo cuore proprio al centro della Terra dei Fuochi, quindi siamo fortemente coinvolti in questo discorso relativo all'ambiente, relativo all'inquinamento ambientale. Dunque abbiamo pensato, soprattutto nell'ottica di chi vuole continuare a lavorare, vuole continuare a vivere in questa zona, abbiamo pensato di offrire un contributo. Il nostro contributo è legato alla possibilità di collaborare con questo partner che è l'APE e che ci consente di monitorare il livello ambientale, il livello della salute ambientale con degli strumenti molto semplici, secondo noi anche meno onerosi degli strumenti tradizionali e in maniera anche più allargata e approfondita. Basti pensare che una centralina, chiamiamola così, costituita da due alveari può arrivare a monitorare un territorio di oltre 7 km quadrati, ogni alveare può arrivare a effettuare anche 10 milioni di microprelievi giornalieri e a determinate condizioni anche a raccogliere mezzo litro di acqua, quindi diciamo può controllare un territorio molto ampio andando a perlustrare tutti i settori ambientali, terreno, vegetazione, acqua, aria e arrivare a darci dei valori che possono poi, se letti in una certa maniera, indicarci lo stato di salute di questo territorio ed aiutarci forse anche a capire meglio qual è la situazione della la salute di questa nostra terra. Bene, io ringrazio Riccardo Terriaca per questa sua testimonianza, è importante secondo me perché così è abbastanza nuovo in questo panorama appunto di che cosa possono servire le api. E a Francesco Panella, sono tanti gli sms, devo dire anche le telefonate, vuol dire che un minimo di sensibilizzazione a questo problema forse c'è ma non emerge. E allora io voglio chiedere a Lucio Cavazzoni, che è presidente Alce Nero e Mielizia già dice qualcosa, credo, in questo nome. Perché, cioè, se in Italia c'è la sensibilizzazione appunto su questo problema delle api, e vorrei anche ricordare che sulla moria delle api è in corso anche una battaglia legale in quel di Bruxelles, perché i produttori dei pesticidi messi al bando hanno fatto ricorso. Buongiorno Cavazzoni. Buongiorno Paolini, buongiorno. Innanzitutto grazie per questa trasmissione, grazie per il suo lavoro, perché è molto importante, ci dà una possibilità anche di, insomma, di poter intervenire, dire alcune questioni a riguardo. Questa battaglia c'è, una battaglia molto forte perché è una battaglia molto importante e alla fine ha come conseguenza le carte bollate. Da una parte un gruppo importante multinazionali, in qualche, come dire, padroni della terra, dei semi e anche di questa chimica, e dall'altra parte rappresentanti ambientalisti, apicoltori, agricoltori biologici, agricoltori di tutti i tipi. Ma di dietro c'è la battaglia più importante, è una battaglia più di fondo. In realtà ciò che si sta confrontando con i neonicotinoidi sono, da una parte, dall'altra parte con invece la possibilità di sopravvivenza di tutti gli insetti pronubi. Poco fa è stato detto molto correttamente, qui si stanno condannando tutti gli insetti e non solo gli insetti pronubi. Sono due approcci all'agricoltura completamente diversi. Un approccio totalmente industriale all'agricoltura, che considera la terra un substrato inerte sul quale operare tecnicamente e chimicamente. Guardi, fa parte di questo approccio l'idea dell'OGM, fa parte di questo approccio l'idea della chimica intensiva, l'idea dell'agricoltura intensiva e resa intensiva. Dall'altra parte c'è invece un'idea che considera la terra un organismo vivente. La terra respira, la terra è vero che vive, se non fosse che la terra vivesse noi non esisteremmo, è l'idea grande ispiratrice di terra madre. Allora, dietro a questa battaglia che noi stiamo facendo c'è proprio una battaglia molto più importante, che è quella di giungere a prodotti che nutrono veramente, che fanno bene e che preservano e conservano la terra e la sua fertilità, perché noi facciamo parte di questa terra. Rimanga con noi Cavazzoni, sentiamo Francesca da Roma, una radioascoltatrice. Buongiorno Francesca. Trovo la trasmissione molto interessante, soprattutto perché io sono una consumatrice di miele, i miei nipotini eccetera, però sto notando che nei supermercati specialmente c'è miele che arriva dall'Ungheria e dall'Argentina e che costa meno del miele italiano. Io spesso ho domandato anche al direttore come mai non miele italiano costa, perché è caro, io lo trovo a 6-7 euro mezzo chilo. Insomma, comunque, vabbè, preferisco prendere le cose nostre, perché altrimenti andiamo tutto ad altri paesi come per altri prodotti, e questo mi dà molto fastidio, specialmente per gli alimenti, perché non sappiamo. Certo, se lo producono le api dovrebbe essere un miele abbastanza buono. Beh, Francesca, comunque siamo in un libero mercato e i controlli ci dovrebbero essere, cioè l'etichettatura dovrebbe dare delle indicazioni. Poi, se ci sono delle frodi o delle adulterazioni, dovrebbe intervenire chi di competenza. Quindi, se una volta un supermercato, un negozio espone della merce, è anche responsabile di questo. Quindi succede per l'olio, succede per tantissimi prodotti di cui abbiamo parlato. In realtà bisogna appunto approfondire e leggere con attenzione e casomai portare anche ad analizzare. Io ho con noi anche un bravissimo apicoltore, Luigi Manias, apicoltore di Ales a Doristano, un grandissimo storico teorico delle api e del miele. Buongiorno Luigi. Buongiorno Davide. Hai sentito questa differenza di prezzo, visto che di miele in realtà ne abbiamo parlato poco, tra l'Argentina, l'Ungheria e gli altri paesi? Cosa ne pensi? Ci sono tutta una serie di considerazioni da fare. Ti do pienamente ragione sul fatto che siamo in un libero mercato, è altrettanto vero che probabilmente ci sono anche dei costi di produzione diverse, naturalmente in Ungheria e in Argentina. Qua da noi il costo del lavoro è un po' più caro, però posso rassicurarti in linea generale che la qualità del nostro miele è fra le più alte in assoluto. Cioè abbiamo tante varietà di mieli uniflorali, abbiamo un macrocosmo straordinario di mille fiori che riproducono quasi fotograficamente lo spettro vegetazionale dei nostri straordinari paesaggi. Quindi voglio dire, la scelta che fa la signora è assolutamente condivisibile, alla luce anche di quanto sto dicendo adesso. Bene, abbiamo Gennaro da Napoli. Buongiorno Gennaro, un altro radioascoltatore. Buongiorno Paolini, complimenti per la trasmissione. Ascolti, io volevo semplicemente dire una piccolissima cosa. Io adoro i fiori, ho molte piante in terrazzo e consideri che in Inghilterra hanno dei giardini bellissimi, ma secondo gli scienziati non ci sono più farfalle, non ci sono più insetti, appunto perché loro utilizzano tantissimo queste sostanze chimiche per proteggere le piante e i fiori dalle cocciniglie, eccetera eccetera. Ecco, io vorrei spezzare una lancia e dire a chi ama i fiori come me di evitare questi prodotti. Con un po' di pazienza io tolgo le foglie che sono ammalate, recido i fiori che si sono ammalati e aspetto con un po' di pazienza che la pianta si riprenda. Punto. Ma questo grazie. È quello che volevo dire. Paolo da Mantova, un altro radioascoltatore. Buongiorno Paolo, velocissimo che stiamo chiudendo. Salve, buongiorno. Buongiorno. Una domanda velocissima. Io abito a Mantova, in un paese non proprio in città, proprio in un paese di periferia, e nella maggior parte dei casi ci troviamo delle api all'interno delle piante oppure nelle stazionate. Per non ammazzare le api, cosa possiamo fare però per togliere il problema dei nidi e quindi eventuali punture? Guarda, abbiamo Manias che ce lo spiega lui forse. No, assolutamente, io penso che l'ascoltatore di Napoli abbia toccato il punto dolente della questione. Noi dobbiamo avere nei confronti delle api una particolare attenzione, perché oggi sono gli unici insetti pronubi che svolgono attività di impollinazione organizzati, perché tutta la entomofauna, come si dice, selvatica, purtroppo causa un'agricoltura dissennata, rischia davvero l'estinzione. Quindi se rischiamo anche di perdere le api, insomma, le conseguenze sono ormai universalmente note, insomma, quindi moltissima attenzione e una conversione totale, io direi, lo so che sono parole un po' forti, verso il biologico, assolutamente, che si tratti di fiori casalinghi o che si tratti di larghe e di grandi estensioni culturali in agricoltura. Bene, abbiamo già perso le lucciole, non dimentichiamolo, se perdiamo anche le api. Cavazzoni, 30 secondi, voglio chiederti cosa si può fare per sensibilizzare ancora di più su questo argomento? Ma innanzitutto crescere come conoscenza, consapevolezza e essere assolutamente attenti nelle scelte che vengono fatte, che non sono soltanto scelte negli acquisti. È il grande passaggio dal diventare consumatori a fruitori di un bene più complessivo che non è soltanto il prodotto è una conseguenza. L'intervento di poco fa di Manias diceva consumate biologico, dietro il biologico c'è una grande idea di vita, bisogna andare in questa direzione. Io sono molto consapevole che il biologico sia un avamposto importante, ma che deve portare spostare tutta l'agricoltura, un'agricoltura diversa, che sia rispettosa e che non pensi ad uccidere e alla terra come un substrato inerte, ma qualcosa che vive, che respira e che ci nutra. Bene, grazie Cavazzoni, ho aspettato fino all'ultimo l'intervento di Loris. Loris non ha telefonato, continua a mandare sms che sicuramente sono importanti, però io mi aspettavo appunto un suo intervento a dissacrare, a contestare quello che era stato detto. Come io dico sempre, il telefono è libero, magari bisogna aspettare un po' perché le telefonate anche oggi erano tante, però con pazienza si interviene, si è liberi di dire quello che si vuole e quindi anche chi ha idee contrarie può farlo benissimo. Comunque io credo che salvare le api sia un fatto molto importante, soprattutto per il cibo. Abbiamo visto che possono essere sentinelle del territorio, quindi in qualche maniera sono davvero molto ma molto utili. Io vi saluto, ringrazio in redazione Lorenzo Nespoli e Camilla Tomadini e in regia Peter Biscapè, quindi vi do appuntamento a sabato, stessa ora, stessa radio, e vi auguro un buon weekend.